edizione. Alle 6 e 12 minuti torniamo insieme, giusto qualche istante prima di darvi le informazioni per sul traffico. C'è un altro tema oggi di cui discuteremo in questa prima edizione. Parleremo di Siria, perché ieri c'è stata una nuova strage che ricalca un po' purtroppo quella che ha tanto occupato le prime pagine dei quotidiani nelle settimane scorse, quella di Hula. C'è stata un'altra strage di civili in una città di nome Hama, una strage che a quanto pare è stata effettuata ancora dagli uomini del presidente Assad, che avrebbero ucciso un centinaio di civili, donne e bambini compresi. C'è anche da dire che si discute finalmente di qualcosa di più concreto come azioni da intraprendere contro il governo di Damasco. Se ne è discusso ieri a Istanbul in una riunione tra i ministri degli esteri dei paesi occidentali e la Lega Araba, una riunione che è stata anche molto voluta dall'Italia. Il ministro degli esteri Terzi ha sottolineato quanto sia importante coinvolgere in questo processo di pacificazione, per così dire, della Siria la Russia e la Cina, che fino adesso hanno sostenuto Damasco a spada tratta nonostante tutte le notizie provenienti dalla Siria. Terzi ha sottolineato come in una fase come questa invece sia necessario trovare l'appoggio di Mosca, e finalmente Mosca in un certo senso sta vacillando rispetto al suo sostegno sulla Siria e quindi sembra un pochino più propensa a così partecipare a questo dialogo che dovrebbe riuscire finalmente a portare Assad fuori dalla Siria e dare prosecuzione al governo attuale, ma con un'altra figura al suo vertice. C'è stato questo vertice di Istanbul ieri, si è parlato molto della situazione. Il segretario di Stato americano Hillary Clinton è intervenuta anche su questo. È difficile immaginare di invitare un paese che orchestra l'assalto del regime di Assad contro il suo popolo, ha detto, ma insomma di questo tema discuteremo approfonditamente più avanti nel corso di prima edizione. Adesso, come dicevamo, ci sono le informazioni sul traffico e poi guarderemo insieme le prime pagine dei quotidiani che oggi ovviamente sono in gran parte dedicate alla cattura dell'attentatore di Brindisi contro, ricorderete, la scuola Morvillo Falcone. Viabilità. Prima edizione. Allora, ancora una buona giornata da Laura Bettini. Prima edizione adesso vi propone le prime pagine dei quotidiani, le percorreremo insieme perché noi stessi le abbiamo ricevute da poco, quindi vediamo insieme le aperture dei quotidiani. Come dicevamo, molti decidono di dare spazio in prima pagina, in primo piano, al fermo del benzinaio per l'attentato di Brindisi. Fermato un benzinaio per la bomba alla scuola, questo è il Corriere della Sera, che riporta tra l'altro anche quel famoso fermo immagine che abbiamo visto e discusso a lungo subito dopo l'attentato, il fermo immagine che ritraeva appunto una persona che a quanto pare è quella che è stata fermata nella notte, che è stata interrogata nella notte, ha ammesso le sue responsabilità, ma il movente non convince, quindi, come dicevamo nel corso del GR, si continua a indagare. Quindi stessa apertura per La Stampa: Brindisi confessa l'assassino di Melissa, fermato un uomo di 68 anni, forse una vendetta personale. Su Repubblica: preso il killer di Brindisi, è un rivenditore di bombole, ha confessato. Come vedete, quando i giornali sono andati in stampa c'era ancora piuttosto una certa incertezza. Preso l'uomo della bomba, così dice il Messaggero. Brindisi, una vendetta dietro l'attentato in cui morì Melissa. La vendetta a tutta pagina, questo è il titolo del Giorno, che riporta la fotografia invece di Melissa Bassi, ma sempre in piccolo il fermo immagine dell'uomo misterioso. Vendetta privata, fermo a Brindisi, questo è il Secolo XIX. Per cambiare un po' le aperture dobbiamo andare su Il Giornale. Ecco la mazzacasta, la proposta del PDL, questo è il titolo di apertura. Alfano presenta la riforma presidenzialista, l'unico modo per rendere governabile un paese vittima dei ricatti. Sul Libero: i balilla del fisco, Befera arruola bambini spia, alunni delle elementari invitati a segnalare all'Agenzia delle Entrate i negozianti che non non rilasciano scontrini durante le vacanze, un'iniziativa da regime a fine corsa, non va leggero. Libero che comunque dà molto spazio anche ad altre notizie in prima pagina, tra cui quella di Brindisi, catturato il bombarolo infame. Brindisi è un benzinaio, avrebbe agito per vendetta. E poi il manifesto, i garanti di Grillo, avanti così, soddisfatti e lottizzati con un voto di Camera e Senato, PDL e PD si spartiscono le nomine delle authority, Agicom e Privacy, polemiche per la moglie di Bruno Vespa tra i commissari alla Privacy, per protesta Italia dei Valori e Radicali non partecipano al voto, mentre in una conferenza stampa Vendola e Di Pietro insistono sulla crisi dell'alleanza con Bersani. Prossima fermata la RAI, questo è il titolo del manifesto, l'apertura, la fotonotizia, Ray Bradbury, il marziano della letteratura, è morto a Los Angeles a 92 anni, lo scrittore che cambiò l'arte di immaginare il futuro, autore di favole e incubi dell'America che traspose nei suoi numerosi racconti, tra le sue opere cult Fahrenheit 451. Notizia di cui diffusamente parleremo anche nel corso del nostro giornale radio. Andiamo su Avvenire. Più forte mister antisprechi, fattore famiglia per partire serve meno di 1 miliardo, il Senato accresce i poteri di Bondi, il commissario scelto da Monti per guidare Italia alla spesa, l'esecutivo battuto in aula sulla spending review. Anche qui bombe a Brindisi, fermato un uomo sotto torchio nella notte, confessa, svolta nelle indagini sull'attentato che costò la vita a Melissa. E da Avvenire andiamo al Fatto Quotidiano, diciamo un legame ideale, il memoriale Gotti tedeschi, vogliono uccidermi, in casa dell'ex presidente dello IOR carabinieri e PM trovano un dossier bomba riservato agli amici, se mi ammazzano qui ho scritto il perché, in Vaticano ho visto cose da avere paura. Sempre per proseguire sulle prime pagine andiamo all'Unità, PDL, Lega, alleanza occulta, Formigoni in Lombardia si salva dalla sfiducia con il soccorso di Maroni, De Gregorio evita l'arresto grazie ai franchi tiratori leghisti, presidenzialismo, Alfano spera nel sì del Carrocce, questa è l'apertura dell'Unità che ricorda anche le scosse di ieri in Romagna, scosse di terremoto, trema anche la Romagna, scossa al largo di Ravenna, si temono ricadute sulla stagione turistica. Squinzi, 10.000 posti a rischio se l'Emilia si ferma per 5 mesi. In realtà, come abbiamo già detto nel corso dei nostri notiziari più volte, c'è già una certa ricaduta sulla stagione turistica della Romagna, con diverse disdette che purtroppo sono arrivate agli albergatori della zona. Sulla Padania, l'IMU terrorizza le famiglie, la denuncia di Confindustria, Tosi rilancia la manifestazione delle 17 a Verona, Garavaglia, l'ANCI sa che è una tassa statale. E poi ancora la stampa scarica Monti, Roma ci carica di stranieri, dal Financial Times al Corrierone, fuga dai fallimenti del professore, ma l'unica priorità della politica è la cittadinanza facile per i futuri elettori. E questo l'apertura, i titoli d'apertura della Padania. Andiamo ora al Sole 24 ore, l'industria italiana arretra, fare di più per la crescita, Squinzi, non rassegnarsi, lo sviluppo è la nostra stella polare. E poi, sempre dalla prima, Draghi, sosterremo le banche, Obama chiama Monti e Merkel, Berlino, piano a fine giugno. Ecco perché è sbagliato criticare Mediobanca su Generali, Luigi Zingales, sempre sul Sole 24 ore, in tema di governance e polemiche. Queste le aperture dei quotidiani di oggi. Andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio qualcosa che ci può incuriosire. Tra l'altro il giorno, ecco, abbiamo dimenticato di segnalare il Bancomat della casta, perché è l'altro grande titolo di apertura. La filiale BNL interna a Palazzo Madama denuncia decine di operazioni sospette. Prelievi allegri dei senatori dai conti dei gruppi. La pista spese personali. Andiamo a pagina 6-7 per approfondire. Lo facciamo insieme perché, come dicevamo, appunto, i giornali quotidiani ci sono arrivati poco prima dell'inizio di questo programma e quindi leggiamo insieme la vita allegra dei senatori con la cassa. Palazzo Madama, decine di parlamentari si sono intascati una valanga di soldi. Così scrive Andrea Cangini, un senatore in odore di riciclaggio rappresenta un caso di malcostume. Decine di senatori in odore di riciclaggio rappresentano una prassi. Ad oggi le segnalazioni sono una quarantina, il numero sembra destinato a crescere, una quarantina di operazioni bancarie sospette segnalate dalla BNL all'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, che provvederà a sua volta a girarle al nucleo speciale di polizia tributaria della Guardia di Finanza e alla direzione investigativa antimafia. Lo impone una legge del 2007, quando un operatore finanziario sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio. Brutta storia. Una storia iniziata quando i vertici della BNL hanno preso coscienza della gestione allegra dei diversi conti correnti che il tesoriere della Margherita Lusi aveva aperto o fatto aprire presso l'agenzia che si trova al piano terreno di Palazzo Madama, nel cuore del Senato. Ricostruiti i movimenti di denaro e interrogati i funzionari, risulta che Lusi non è quel che si suol dire una pecora nera, è un recordman in negativo. Ma alla stessa gara partecipano in molti. La gestione personalistica e disinvolta dei soldi destinati ai gruppi parlamentari non rappresenta infatti l'eccezione, bensì la regola. Si sapeva in effetti, ma si è sempre cercato di non dirlo. Oltre ai cosiddetti rimborsi elettorali e ai finanziamenti per i giornali di partito, un altro canale attraverso il quale il denaro pubblico affluisce nelle casse dei partiti politici è infatti rappresentato dai trasferimenti ai gruppi parlamentari. Ora, poiché il tempo stringe, ci fermiamo qui. L'articolo però sembra interessante. Andrea Cangini su Il Giorno. E poi quindi torniamo agli altri, gli altri quotidiani riportano, c'è molto spazio anche agli azzurri che sono ad Auschwitz, mai più questo orrore, le immagini le abbiamo viste, se avete avuto occasione sono commoventi, insomma, anche di questi giovani all'interno di un campo che sicuramente fa riflettere. Se ci siete stati, difficilmente dimenticate quello che si vede. Il mercatino delle autorità, invece, il titolo dell'editoriale Sergio Rizzo, il Corriere della Sera, è davvero bizzarro: un paese nel quale si pensa di risolvere ogni problema creando una nuova authority. L'ultima in ordine di apparizione è l'organismo indipendente che Camera e Senato dovranno costituire per sorvegliare le pubbliche finanze, previsto dalla legge costituzionale con cui è stato introdotto il pareggio di bilancio. Non bastava la Corte dei Conti, cui la nostra carta fondamentale assegna quel compito, per non parlare della Ragioneria Generale, considerato il gendarme dell'erario, e senza considerare che ciascuno dei due rami del Parlamento ha già una propria struttura dedicata all'esame dei bilanci. Il tutto mentre lo Stato ha una vaga idea del perimetro della spesa pubblica, conosce a malapena il numero di stipendi pagati dai contribuenti, ignora perfino quanto guadagnano i suoi alti burocrati, al punto da dover chiedere a loro stessi, per poter applicare il tetto delle buste paga, di dichiarare la reale retribuzione percepita. In compenso, sappiamo con certezza come saranno individuati i membri di questa ennesima authority. Dopo aver visto che cosa è successo con il garante delle comunicazioni, non ci facciamo illusioni. Sia chiaro, nessuno ce l'ha con i singoli, non con Antonio Martuscello, ex dipendente di Silvio Berlusconi ed ex onorevole azzurro sbalzato fuori ancora giovane dai ranghi più elevati del partito, che non poteva certo ritrovarsi a soli 50 anni nella penosa condizione di baby pensionato del Parlamento. Né con Antonio Preto, ex capo di gabinetto del commissario europeo Antonio Tajani, autore di saggi insieme all'ex ministro Renato Brunetta, ma neanche con Francesco Posteraro, vice segretario generale di Montecitorio, sponsorizzato da Pier Ferdinando Casini, che potrà sommare alla lautissima pensione della Camera anche i 260.000 euro dello stipendio da commissario a GCOM. E neppure con Maurizio Decina, considerato super esperto del settore indicato dal Partito Democratico. Ce l'abbiamo con chi li ha scelti, per il modo in cui l'ha fatto. Attendersi che questi partiti rinunciassero alle loro prerogative, magari designando i componenti dell'authority con bandi pubblici europei, era forse troppo. E così, non senza ironia, Sergio Rizzo, Corriere della Sera. E il tema questo è su tutti i quotidiani, troverete commenti ovunque. La dissolvenza della casta, Massimo Gramellini, lavorano tutti per Grillo ormai, per Grillo o per qualcosa di molto peggio, perché dopo giornate come quella di ieri risulta ancora più difficile, anche se indispensabile, separare la politica da questa politica e la democrazia da questi partiti. Cominciamo dalla regione Lombardia, dove non è passata la mozione di sfiducia contro il presidente Formigoni. L'esito era abbastanza prevedibile, avendo il centrodestra la maggioranza in consiglio. Quel che non era prevedibile, neanche in una gag di Crozza, in un incubo di Bersani, era che al momento del voto il primo firmatario della mozione contro gli yacht di Formigoni fosse assente perché impegnato a prendere il sole su una spiaggia greca. E così ancora, Gramellini sulla stampa, ma lo spazio a nostra disposizione per la rassegna stampa è concluso, quindi linea alla pubblicità, ci ritroviamo con il GR in breve, tra pochissimo. Prima edizione. Ancora una buona giornata da Laura Bettini, sono le 6 e quasi 34 minuti. Diamo il benvenuto alle nostre colleghe, due ospiti che abbiamo oggi. Katia Caramelli ci parlerà di Siria, come avevamo anticipato, e Adriana Fracchia per gli ultimi aggiornamenti da Brindisi. Adriana, buongiorno. Sì, buongiorno. Il presunto autore dell'attentato davanti a una scuola di Brindisi, in cui è morta la giovane Melissa Bassi e altre 5 studentesse sono rimaste ferite, ha ora un nome. Si chiama Giovanni Vantaggiato, sarebbe un benzinaio di 68 anni di Copertino in provincia di Lecce. Dopo 9 ore di interrogatorio l'uomo avrebbe confessato: quella bomba l'ho fatta io da solo, l'ho pensata e l'ho costruita. La svolta dell'indagine su questo attentato a Brindisi è arrivata poco dopo le 22, ma la conferma è giunta solo poco dopo l'1:30 di notte. Questa svolta, dicevamo, è il risultato del grande lavoro della magistratura e della collaborazione e sinergia tra carabinieri e polizia, come ha detto il capo della polizia Antonio Manganelli. Ma veniamo proprio alle indagini. L'auto del benzinaio sarebbe stata ripresa dalle telecamere nei pressi della scuola Morvillo Falcone poco prima dell'esplosione, una circostanza alla quale gli inquirenti attribuiscono grande importanza. Ripresa poi anche l'auto di un familiare di Vantaggiato che ora è accusato di strage aggravata. Il benzinaio avrebbe però, secondo il procuratore della DDA di Lecce, Cataldo Motta, un movente poco convincente. Si parla di una vendetta personale e tra le ipotesi che si fanno, una riguarderebbe dei rancori contro Angelo Rampino, il preside della scuola Morvillo Falcone. Un'altra ipotesi di movente invece che l'uomo ce l'avesse con la giustizia per un torto subito in un processo seguito a una truffa di cui era rimasto vittima. Processo che si era concluso da poco al tribunale di Brindisi, che si trova proprio alle spalle della scuola. Al momento queste sono tutte solo ipotesi, perché in procura il riserbo è massimo. La confessione non è soddisfacente, per cui le indagini continueranno per completare il quadro investigativo, come ha anche detto il procuratore della DDA di Lecce. E esclusi il movente terroristico e quello della criminalità organizzata, che avevano determinato l'intervento appunto della direzione distrettuale antimafia di Lecce, ora l'inchiesta potrebbe essere destinata ad altra sede. Per il momento è tutto. Grazie Adriana Fracchia. Ricordo all'ascoltatore Francesco che ci scrive da Verona, criticando il fatto che facciamo il nome di Giovanni Vantaggiato, che non è Radio 24 e neanche gli altri giornali e le altre emittenti radio televisive a tirare in ballo questo nome, ma il procuratore della DDA di Lecce, Cataldo Motta, che ha confermato che è stato fermato il presunto autore dell'attentato di Brindisi, questa vi leggo l'agenzia testuale, e poi appunto ha riferito quello che ci diceva Adriana sul fatto che il movente ha confessato, ma il movente risulta poco convincente e quindi bisognerà indagare ancora. Quindi non è che si tratta di sbattere una persona sulle prime pagine dei giornali, ma di riferire quello che gli investigatori hanno a loro volta riferito ai giornalisti. Katia Caramelli, invece, parliamo di Siria a questo punto. Abbiamo detto nel corso dei nostri giornali radio che c'è stata un'altra strage, non dissimile purtroppo da quella di Hula, di cui molto abbiamo parlato. Ieri a Hama è successa questa nuova strage. Sì, infatti. Cominciamo proprio da quest'ennesimo massacro. A denunciarlo è stato ancora una volta il Consiglio Nazionale Siriano. Nella regione di Hama, non tanto distante da Hula, sarebbero state uccise un centinaio di persone e tra queste purtroppo ancora una volta ci sarebbero donne e bambini. E tutto questo mentre ad Istanbul si è tenuto il vertice proprio degli amici della Siria per cercare una via d'uscita a questa crisi infinita. Il segretario di Stato americano Hillary Clinton ha indicato a suo avviso la strada per la transizione, che deve prevedere, ha detto la Clinton, il completo trasferimento dei poteri di Assad ed un governo ad interim che porti poi a libere elezioni. Dal vertice convocato, lo ricordiamo, anche su impulso dell'Italia, è arrivato anche un appello al coinvolgimento della Russia, un partner essenziale, ha ricordato proprio il nostro ministro degli esteri terzi, anche se la proposta di Mosca di coinvolgere l'Iran in una trattativa è stata invece bocciata. Fonti americane infine hanno annunciato che gli amici della Siria torneranno a riunirsi presto, lo faranno il prossimo 6 luglio e per il momento è tutto. 6 luglio, data vicina ma anche lontana per una popolazione che da un anno ormai soffre di questa situazione e quindi con migliaia e migliaia di vittime. Le ultime agenzie ci riferiscono di una confisca delle aziende al boss, la direzione investigativa antimafia di Palermo ha confiscato definitivamente l'intero complesso aziendale dell'impresa Occhialeria Borruso con sede a Palermo di proprietà del mafioso detenuto Mario Martello, 66 anni, e poi ancora un blitz dei NAS a Foggia e poi attacco suicida al nord dell'Afghanistan. Ci sono due vittime, queste le ultime agenzie. Come dicevamo, ora diamo spazio al traffico. Subito dopo andremo in Emilia, come ormai facciamo quotidianamente da quando è arrivato il terremoto. C'è stata un'altra scossa nella notte. Ci collegheremo con Moglia per sapere com'è andata. Prima edizione. L'Emilia Romagna non sarà lasciata sola, quei cittadini, quelle imprese, quei lavoratori, quei comuni, quei sindaci non sono soli, stiamo lavorando e daremo le risposte che un paese solidale e grande come l'Italia deve sapere dare. Il paese solidale e grande, così dice Vasco Errani, presidente della regione Emilia-Romagna. Come dicevamo, una scossa di magnitudo 3.2 è stata avvertita dalla popolazione nelle province di Modena, Reggio Emilia e Mantova. Nel corso della notte erano circa le 3:45 minuti. Le località più vicine all'epicentro sono Rolo, provincia di Reggio Emilia, 9 di Modena, San Possidonio e Concordia sulla Secchia, in provincia di Modena, e Moglia, in provincia di Mantova. E proprio con Moglia siamo in collegamento in questo momento. C'è con noi Ennio Bonetti, colonna mobile Alpini della Lombardia. Buongiorno Bonetti. Buongiorno a lei. Allora, è stata davvero avvertita questa scossa anche da voi nel campo? È diventata una consuetudine quasi le scosse nel campo. Non ci fate più caso? Forse da soccorritori meno, ma la popolazione, avvertiamo più la popolazione che probabilmente ha una sensibilità diversa dalla nostra, è molto, si agita molto, ecco, diciamo così, è molto. Beh, penseranno sicuramente alle loro case, insomma, che hanno lasciato, e ogni scossa è timore che possa accadere qualcosa di ancora peggiore. Esatto, cioè, quanto ne so, anche con la scossa stanotte non è crollato niente, perlomeno qui a Moglia. C'è un po' di agitazione nel campo, ecco, quando succedono queste cose, ma Senta, parliamo di quasi una normalità. Lei da quanto tempo è lì a Moglia? Noi abbiamo dato il cambio all'altra squadra degli alpini che c'erano domenica e ci fermiamo fino al prossimo cambio che sarà domenica. Quindi una settimana? Sì. Una settimana. Quindi, ormai siamo a giovedì, quindi ha una certa, diciamo, esperienza, forse anche per quello che non le nota più di tanto ormai le scosse, già da qualche giorno lì. È stata parecchio forte quella di lunedì, dove c'è stato poi il crollo del campanile a Novi, quella ci ha fatto sobbalzare veramente, 5.1 mi sembra. Sì, era molto forte, era molto, molto forte quella. Sì. Senta, quante persone ci sono nel campo di Moglia? Siamo dai 280 alle 300 persone, tra residenti e volontari, insomma, questo numero. Lì giovani, anziani, ci cioè sono un po' tutti, allora, c'è tutto il paese? Una folta comunità di pakistani, e poi l'età media è dai 45 agli 80, anche un po' di bambini sempre, diciamo, di questa etnia. Beh, non è facile assistere persone così anche diverse, voglio dire, avranno tutti esigenze diverse, più anziani, poi bambini, pakistani, esatto, cioè, ci siamo presi un po' la mano, insomma, il più difficile assisterli è appunto è la mensa, è preparare dei pasti che a loro siano congeniali, che rispettino vi dovranno dare una mano loro, perché questo credo che non sia nelle competenze degli alpini saperlo. Non è che ci facciano il menù, però comunque ci danno dei suggerimenti, questo è molto importante. Ci dica un po' che cosa, per esempio, vi hanno suggerito di non usare o di usare? La carne, ci deve essere un'indicazione sulla carne, il taglio della carne o il riso, non so, che i nostri cucinieri stanno stanno facendo dei risotti un po' particolari. Al curry. Anche. Non siamo arrivati al menù alla carta, però ci stiamo vi state organizzando. Senta, ma questo menù che voi dovete preparare, che è anche un po' differenziato, poi va bene per tutta la comunità o addirittura vi tocca fare una parte per gli italiani, diciamo, una parte per gli altri? Diciamo che abbiamo sempre due primi e due secondi, diciamo così. Ah, quindi vi organizzate in modo che uno sia adatto a una comunità e uno sia adatto magari all'altra. Esatto. Senta, dovendo indicare quelle che sono le esigenze di questo campo, adesso agli ascoltatori, se qualcuno volesse in qualche maniera aiutarvi, che cosa ci può dire? Oh, devo riscontrare una cosa, a diversità di tanti anni che faccio il volontario, che c'è uno slancio di solidarietà impressionante, perché arriva materiale di ogni genere, derrate alimentari, vestiari, tutto quanto. Stiamo organizzando un buon magazzino per poi fare la distribuzione di questi beni, diciamo. E tutto sommato il campo si vive abbastanza tranquillamente, anzi c'è molta cordialità anche con i residenti. Esigenze particolarissime, è logico, prima si smantella tutto e prima questi cittadini riescono a rientrare nelle proprie abitazioni, sarebbe... Beh, meglio è, certo. Sì, solo che stanno continuando a fare con i tecnici regionali i vari rilievi nelle abitazioni civili con l'ausilio dei vigili del fuoco, però se queste scosse non accennano a diminuire perlomeno come frequenza, non sarà una cosa così di breve finirla in breve tempo, ecco, diciamo. E quindi certo ci sarà ancora da aspettare, anche perché le scosse continuano, le case lì sono particolarmente lesionate e non si riesce sicuramente a rientrare in tempi brevi nelle abitazioni. Esatto. Specialmente nel centro storico, che è la parte più lesionata del paese. Perché poi non è sempre quello che si vede dall'esterno. È più quello che è dentro, che chiaramente. Che fa... Perché da un occhio magari non allenato, uno che ci arriva qui dice: ma non è successo niente. E no, perché dopo quando si apre, si entra in casa, allora è tutto diverso. I vari problemi. Grazie, Ennio Bonetti, colonna mobile Alpini della Lombardia. Prima edizione si conclude qui. Ci ritroviamo tra pochissimo alle 6:58 con GR24.